E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, che è proprio l'ora della Conta, una delle tante Conte che le guardie compiono nei confronti dei detenuti e delle detenute. Perché vengono contati i detenuti, anche se purtroppo poi invece non contano, nel senso che non hanno una importanza, non vengono ritenuti degni di ascolto in questa società abbastanza squallida da questo punto di vista. E quindi affrontiamo subito il tema del sovraffollamento, perché appunto avrete sentito dai telegiornali, giornali radio e anche giornali cartacei che il governo si appresta ha fatto qualche tempo fa un decreto che scade il 20 di questo mese, il 20 febbraio. Il decreto deve essere un decreto d'urgenza, deve essere convertito in legge entro 60 giorni. 60 giorni scadono il 20 di febbraio. Se non verrà approvato dalle Camere, entrambe le Camere, chiaramente viene cancellato, sarà abrogato, vanificato. Era il decreto, di cosa parliamo? Del famoso, per altri versi famigerato, decreto svuota carceri. Mai titolo fu più infelice, perché non svuoterà un bel niente, non solo, ma in qualche caso probabilmente peggiorerà le condizioni di chi ci sta nelle carceri o comunque ci andrà. Allora, vediamolo brevemente, però succintamente, ne abbiamo già parlato altre volte. Questo decreto si basa su due, è stato fatto decreto, quindi già è operante, poi appunto deve essere convertito in legge. E infatti è già operante e non è che ha svuotato un granché. Perché? Questo decreto si basa su due punti fondamentali. Allora, il primo è la valutazione da parte del governo, ma cosa che sapevano tutti da tempo. Comunque il governo è venuto a sapere, questo governo di tecnici, che è cosiddetti tecnici, ci ho messo tante virgolette, non so se l'avete notate, ascoltando la voce. Questo governo di tecnici si è accorto che perlomeno, tutti hanno detto scandalo, tutto il mondo, tutta l'Europa, anche se non è che le altre carceri, quelle europee, stiano molto meglio, però diciamo loro non stanno meglio, ma noi stiamo un po' peggio, nel senso fanno un po' più schifo. Vengono spesso sanzioni ovviamente soltanto morali oppure pecuniarie da parte della Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa per la giustizia, no? È un organo consultivo, non è che ha poteri, però dice che praticamente le condizioni dei carceri fanno schifo, lo dice anche Amnesty International, l'ONU, i vari organismi di diritti umani dicono che le carceri fanno schifo, il sovraffollamento è inaccettabile, non si può trattare così dei cittadini, degli esseri umani, e quindi il governo dovrebbe fare qualcosa, l'ha detto pure il Presidente della Repubblica, ha detto il Papa, dicono tu, tanto non costa, le parole non costano niente. C'era un bel detto, quando ero ragazzino, si usavano molto i detti popolari per, no, diciamo, raccogliere dei concetti in poche parole. Si dicevano, se le parole fossero come il carbone, allora dice, si camminerebbe gratis, perché di parole appunto se ne dicono a vanga, senza costrutto. Poi senza... Vabbè, tutti hanno detto che le carceri è brutta, il governo che ha detto, vediamo un po' quali sono, che cosa si può fare, ovviamente amnistia, tutti i partiti sono contrari, indulto pure sono tutti contrari. E allora si è accorto che ci sono circa 20.000 persone che vengono arrestate in flagranza di reato, praticamente piccoli furti contro il patrimonio oppure piccolo spaccio. Vengono arrestati e vengono portati in carcere, stanno un paio di giorni, 2 o 3 giorni, perché fino a 96 ore, quindi 4 giorni per avere la direttissima, il processo per direttissima, poi ovviamente il processo per direttissima spesso o vengono assolti per mancanza di prove oppure oppure gli viene data una pena talmente esigua che vengono rimandati a casa. Questo meccanismo, nel solito linguaggio un po' stupido giornalistico oppure degli pseudo esperti, è stato chiamato delle porte girevoli, cioè tantissime persone entrano in carcere, ci stanno una media di 3 giorni e poi riescono, e questo crea un problema ovviamente in matricola, che super lavoro, gente che entra, gente che esce, e loro dicono queste 21.000 persone che entrano ogni anno in carcere, ci stanno 3-4 giorni, potremmo non farle entrare per niente. Bene, ottimo intendimento, però poi passando al concreto, invece che cosa hanno pensato di fare? Si poteva pensare per reati minori, i cosiddetti reati bagatellari, su cui c'è una letteratura enorme, no? Questi piccoli, appunto, le persone possono essere mandate agli arresti domiciliari oppure con la firma, qualcosa, e poi per aspettare questi 3-4 giorni il processo per direttissima, che cosa decide. No, allora, no, questo non si è voluto fare, perché per carità di Dio dovesse poi... cioè, sono persone che comunque la gran parte poi escono, perché appunto anche se vengono condannati è talmente piccolo il reato che o prendono la condizionale o prendono appunto altre forme di detenzione che non siano il carcere, o comunque è talmente piccola la pena che aspettando l'appello stanno comunque agli arresti, quindi comunque non entrano in carcere, per cui tanto valeva farli. Invece si è detto vabbè, facciamoli restare nelle celle di sicurezza dei commissariati e delle caserme dei carabinieri, che sono quelli che ti arrestano, ti vengono a arrestare o ti arrestano in flagranza, dopodiché ti dovrebbero portare in genere in giornata, ti portano in carcere. A volte, se ti arrestano la sera, passi una terribile notte che tutti si ricordano, con chi comunque è passato per le celle di sicurezza. Qualcuno c'è stato un giorno, una notte, qualcuno ce n'è stato di più, perché per esempio qualche anno fa le famigerate leggi speciali, le famose, qualcuno le ricorderà, le leggi Cossiga, consentivano alle forze cosiddetto ordine, carabinieri e polizia, di tenerti fino a una settimana nelle loro mani, senza essere interrogato dal giudice, quindi nessuno ti vedeva, nessuno sapeva niente di te, e senza trasferirti in carcere. Però quello era un periodo eccezionale, si diceva la guerra, la non guerra, insomma, e questo ha permesso anche, non a caso, di fare la tortura, perché quei 7 giorni scomparsi dalla realtà in mano delle forze dell'ordine chiaramente potevano fare pressioni psicologiche, e le facevano ma anche per esempio unite a pressioni fisiche, tutto il tipo. Vabbè, comunque quello era un periodo, come si dice, particolare, di emergenza. Adesso non si capisce che emergenza c'è, sarà quella freddo, ma che ci azzecca con i detenuti e le detenute. Vabbè, allora, comunque ha detto lasciamoli quindi nelle celle di sicurezza. Ora, l'hanno detto pure i sindacati delle forze dell'ordine, polizia, i carabinieri non hanno un sindacato, ma l'ha detto il COCER, che è una sorta di rappresentanza. Le celle di sicurezza delle caserme dei carabinieri e dei commissariati e delle questure non sono in grado di tenere le persone per più di qualche ora, perché non hanno il bagno in cella, non c'è la possibilità di farsi la doccia, non c'è una mensa che ti assicura, diciamo, il vitto, non c'è la socialità, non c'è l'aria, non c'è niente, insomma, di quei minimi cosiddetti diritti. Infatti non ho capito questa legge, vabbè, ora ci arriviamo, vabbè. E quindi, però, duri, nonostante tutti hanno detto che aggiustare in pochi giorni, comunque è rimasta questa cosa qui, sta nel pacchetto. Questo è il primo caposaldo. Il secondo, vediamoli, poi entriamo nel merito. Il secondo è quello che dice che ha elevato da 12 mesi a 18 mesi, quindi un anno e mezzo, quando il termine della pena è 18 mesi, cioè quando alla fine della pena, della condanna, all'estinzione, alla fine, all'ultimo giorno, ti mancano 18 mesi, quindi un anno e mezzo, puoi chiedere che gli ultimi anni e mezzo lo passi in detenzione domiciliare, che non sono arresti domiciliari, ma detenzione, perché sei stato già condannato, quindi stai scontando una pena, sei in esecuzione pena, e quindi si chiama detenzione, dovunque la svolgi. Quindi 18 mesi in detenzione domiciliare. Alfano aveva fatto questo provvedimento, anche lui l'aveva chiamato svuota carceri, 12 mesi, questo non guardava 18 mesi, e qui dice uscirà un sacco di gente, non esce nessuno, perché non è automatico, non è che dici da domani tutti quelli che hanno un residuo pena di 18 mesi escono, vabbè, tranne i soliti reati legati alla mafia, alla grande criminalità eccetera, ma tutti gli altri non esce nessuno. Infatti il decreto è operante, perché è un decreto già attivo, deve essere soltanto convalidato, ma non è uscito nessuno. Perché? Perché non è automatica l'uscita, deve essere deve passare sotto il vaglio del Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza, sappiamo, è oberato di carte, perché il numero di detenuti ha fatto aumentare non solo nelle celle il sovraffollamento eccetera, ma anche le carte presso i tribunali di sorveglianza, che sono rimasti con lo stesso organico e devono trattare diciamo le attività di 70.000 detenuti, tanti sono i carcerati nelle celle oggi in Italia, per ogni cosa, per un permesso, per un'espulsione, per quanto riguarda tutti i cittadini non italiani che stanno nelle carceri, no? Anche lì si deve pronunciare il Tribunale di Sorveglianza. Per una semilibertà si deve pronunciare il Tribunale di Sorveglianza, per una libertà condizionale si deve pronunciare il Tribunale di Sorveglianza, per un affidamento in prova ai servizi sociali e così via, per le persone che stanno male, la sospensione pena per gravi motivi di salute e si deve pronunciare il Tribunale di Sorveglianza. Insomma, il Tribunale di Sorveglianza ovviamente è stato istituito proprio per quello, per pronunciarsi su tutte le questioni oltre la normalità della situazione carceraria. Bene, e quindi le montagne di carte sono tantissime e quindi quanti ne escono di questo provvedimento? In media, è un calcolo che ha fatto il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, il DAP, ne usciranno 80-100 al mese. Questa è il famosa volontà di svuotare il mare con un cucchiaino. Fa un po' ridere questa cosa, quindi non esce nessuno, nonostante i titoli dei giornalacci orribili. Quindi stamattina La Padania, un giornale, chiamarlo giornale è un po' troppo, cioè quel foglio di carta imbrattato di escrementi che si chiama Padania, che diceva il governo libera i criminali, tutti i criminali in libertà. Vabbè. Quindi vedete, quando il cervello non ci sta più, è pieno di segature, è chiaro che produce queste cose. Questo, quindi i due cose sono questi: uno, le celle di sicurezza invece del carcere per i primi giorni, e l'altro, l'ultimo, il residuo pena di 18 mesi da scontare in detenzione domiciliare. Però il secondo, abbiamo visto, 80 al mese non usciranno, quindi niente. Non riescono nemmeno a fronteggiare quelli che l'aumento che c'è mensilmente di persone in carcere. E quello appunto degli, vedrete che dopo i primi giorni non funzionerà il meccanismo della presenza della detenzione nelle celle di sicurezza, degli arresti nelle celle di sicurezza, e succederanno anche dei casini qui, perché come sapete chi ti arresta spesso è venuto a diverbio, addirittura anche a insulti con le persone arrestate, quindi i casi di maltrattamenti nelle celle di sicurezza ce ne stanno a iosa. Purtroppo alcuni sono anche arrivati fino all'assassinio, alla morte del caso Cucchi, ma anche Aldo Randi, ma tantissime altre persone nelle celle di sicurezza hanno trovato l'ultima loro respiro. Bene, e quindi dovremo stare molto attenti, soprattutto chi vive nelle realtà territoriali, stare molto attenti di quello che succede nei commissariati, nelle caserme dei carabinieri, perché insomma possono succedere cose tristi. Questo è quello che stanno preparando, quindi niente, una cosa abbastanza cialtronesca. Qual è il meccanismo? L'abbiamo detto mille volte e lo ripetiamo per l'ennesima volta. Qual è il meccanismo che invece ha fatto empire le galere in Italia? Non un particolare fenomeno criminale in aumento, assolutamente. Avete sentito i dati quelli che dà il procuratore generale per espresso la Cassazione ogni anno all'inaugurazione dell'anno giudiziario, fa il resoconto, no? Dà tutti i dati dei reati, delle carceri, tutti i dati inerenti alla giustizia. I dati di quest'anno, ovviamente riferiti all'anno precedente, i reati, quelli soprattutto cosiddetti predatori, cioè quelli contro la persona, no? Quelli attuati con una certa violenza, la rapina a mano armata, la rapina con ferite alla persona, le offese alla persona, le violenze contro la persona, e anche gli assassini sono in calo, e questo è un bene, ovviamente, non è che ci lamentiamo. Quelli che sono in aumento sono i reati contro il patrimonio, ossia i furti, e questi sono chiaramente, ma credo che lo capiva anche chiunque, uno che passa per strada per caso da questo, in questo paese, perché c'è una crisi che ormai dura pesantemente da qualche anno e che non accenna a migliorare, anzi peggiora sempre di più. È chiaro che gli strati più bassi della popolazione sono spinti veramente a livello di fame abbastanza, e quindi è ovvio che in questi casi il normale andamento del furto, no? Quindi l'appropriazione di qualcosa a volte necessaria è in leggero aumento, ma sono reati piccolissimi. Per quello, proprio per questo motivo dell'aumento dei piccolissimi reati e della diminuzione dei reati invece di grosso spessore, quindi, che è il che appunto avendo visto questa grande quantità di persone che entrano e ci stanno 2 giorni in carcere, hanno pensato di quella cosa. Però avrebbero potuto fare con interesse appunto una, gli arresti domiciliari per le persone appena arrestate in attesa del processo, quelle prese in flagranza di reato. Invece li terranno nelle caserme dei carabinieri con grosso nocumento della loro salute. Quindi qui va alzata molto l'allerta di tutte noi, tutti noi, soprattutto nei territori, quando le persone escono perché usciranno poi in libertà, quasi tutti vengono rimessi in libertà, il 90%, perché ovviamente sono piccoli furti, vengono in attesa casomai dell'appello, quindi quando usciamo da lì cerchiamo di sollevare l'attenzione, andare a intervistarli, chiedere come sono stati, che cosa hanno subito, perché insomma qualche schiaffone, e voglio essere buono, lo si prende da quelle parti. Voi direte il carcere si sta peggio, certo, però in carcere è chiaro che è diverso. Tu quando entri in carcere, anche se provieni dalla libertà, quindi il trauma tutto di questo mostro che vedi, tutto quello che volete, tutto brutto, però a un certo punto quando arrivi in sezione dove ci stanno gli altri detenuti, viene accolto comunque, ancora c'è questa accoglienza da parte di questo settore della popolazione, forse è l'unico settore della popolazione italiana che mantiene ancora la cultura dell'accoglienza, viene accolto, ti offrono le sigarette, qualcuno ti dà da mangiare, insomma se non c'hai ancora niente, se fa freddo ti si offre un giubbetto, insomma, e comunque hai un ambito di socialità e anche un ambito di persone a cui puoi chiedere che ti è successo, se non hai un avvocato chiedi consiglio, insomma poi hai intorno una comunità di gente che sta in qualche modo come te e quindi ti può sostare. Quindi nella cella di sicurezza sei tu e le guardie, è la situazione più spaventosa. Come fanno queste persone che si definiscono tecniche a non aver capito l'obbrobrio di questa misura, è veramente spaventoso. Per finire però, diciamo, l'elemento che ha invece riempito le carceri, nonostante il non aumento, anzi la diminuzione degli atti, diciamo delle trasgressioni di legge, i cosiddetti gli atti criminali, è dovuto al fatto che hanno prodotto negli ultimi anni delle leggi a di poco abiette, infami, squallide, schifose. La peggiore di tutti è la legge Cirielli, quella che praticamente blocca o comunque rimanda di molto la possibilità di accedere alle misure alternative per i cosiddetti recidivi. I recidivi sono quelli che fanno lo stesso reato più di una volta, quindi chi sono? Appunto, chi fa i piccoli furti, ovviamente ne deve fare più di uno. Se uno fa la grande truffa Parmalat, con una che fa si sistema per tutta la vita, quindi quello ne fa uno, infatti è tutelato, perché in genere la fanno i grandi signori, i grandi padroni di Stato la fanno la truffa, e chi fa il piccolo furtarello non deve fare più di uno, quindi è recidivo. Come recidivo viene messo all'inferno veramente, non ha più le misure alternative, deve avere, il giudice è costretto a tenerlo in carcere, anche se perché la legge gli impone il carcere, non può mandarlo agli arresti domiciliari, e poi appunto gli fanno fare la galera fino all'ultimo giorno, e anche il piccolo spaccio è recidivo, mentre invece quella stessa legge Cirielli da una parte castigava quindi i piccoli reati, dall'altra parte assolveva i grandi reati. È stata quella che è stata fatta un po' a misura per Berlusconi, perché ha accorciato i termini di prescrizione, li ha accorciati di molto per i grandi reati, no? Falso in bilancio, frode fiscale, corruzione, concussione, che erano in parte i reati appunto che avevano tutti Berlusconi e i suoi amici, e quindi si sono salvati loro. Quindi da una parte puniva i poveri, dall'altra parte assolveva i ricchi. Questa è l'Italia. e quindi niente, il pacchetto vuota carceri fa schifo, la legge Cirielli, se ci fosse un governo degno di questo nome che volesse rispettare le garanzie democratiche e garantiste, che si volesse così in qualche modo definire minimamente civile, dovrebbe abrogare la Cirielli. È la legge più incivile esistente in, sì, sicuramente in Europa. Una legge così indegna, infame, cioè in cui salva i ricchi e castiga i poveri, probabilmente non credo che ci sia in nessuna parte del mondo. Va bene, adesso terminiamo qui e tra un po' adesso ci prendiamo un po' di stacco musicale e poi vi facciamo ascoltare una cosa molto interessante. Allora, quello che avete ascoltato è un cantante algerino, anche se canta anche molto in Francia, e quindi viene chiamato Franco Algerino, comunque lui è algerino, e questa è Souad Massi, e questa è Raji, che è quella musica nata nella strada, molto contaminata, molto interessante, che è nata in Algeria e si è sviluppata poi nel resto del Maghreb. Che cosa vi facciamo ascoltare adesso? La seconda puntata dell'intervista a alcuni i compagni e compagne del movimento Occupy the Hood da New York. Quindi abbiamo, due settimane fa abbiamo ascoltato la prima intervista. Chi sono questi? Sono dei militanti, compagni e compagne che hanno partecipato e partecipano al movimento Occupy Wall Street, che si è sviluppato e contro la crisi economica, contro il malessere, contro la diminuzione del welfare, che anche negli Stati Uniti c'è, no? Chiedono indennità di disoccupazione, tutte le cose che un po' si sviluppano ovunque tra gli strati, diciamo, bassi della popolazione aggrediti da questa crisi. In particolare però in quel movimento alcuni militanti che provenivano dal movimento di solidarietà nei confronti di Abu Jamal, e anche molti avevano militato, anche se nell'ultimo periodo, del movimento molto vasto che si sviluppò intorno alle Pantere Nere, ricordate, comunque ai diritti della popolazione afroamericana e anche del Black Panther e così via. Pur partecipando al movimento Occupy Wall Street, individuarono una carenza in quel movimento: la poca attenzione, tutto giusto sui temi economici, c'era la poca attenzione al problema del carcere e la poca attenzione alla specificità che negli Stati Uniti il tema del carcere assume, ossia che in prevalenza ci vanno a finire gli afroamericani in carcere. E poi particolare violenza che si usa ancora da parte della polizia nei ghetti, cioè una specificità molto forte che andava sottolineata secondo loro, e che nei momenti di crisi assume ancora più violenza. Lo Stato è sempre più violento nei confronti degli stati bassi della popolazione, soprattutto se non stanno passivamente a subire il peggioramento delle proprie condizioni, ma se si ribellano, come avviene nei molti ghetti degli Stati Uniti, chiaramente la repressione è più feroce. Quindi loro volevano anche che una parte che si, diciamo, si proponesse questo aspetto sia dal punto di vista di denunce sia anche come rivendicazioni. Ebbene, e quindi hanno ripreso in parte il programma delle Pantere Nere, quindi un programma anche di assistenza nei confronti dei bambini e delle bambine, ad esempio, che nascono nelle situazioni dei ghetti degli afroamericani, che ancora spesso vivono in condizioni disastrate, le scuole sono state chiuse, non ci sono scuole pubbliche in molte situazioni. Loro organizzano, anche come facevano le Pantere Nere, un loro sistema scolastico, un loro sistema d'assistenza delle mense, cioè molto interessante. Vogliono riprendere più o meno quel programma. Si chiamano Occupy the Hood, e adesso vi facciamo sentire la seconda puntata di questa intervista, direttamente, ovviamente registrata, quindi di qualche giorno fa, direttamente da New York. Oh, I'm sorry, this is my co-founder, Preach. Hey, how's it going? Nice to meet you. Maybe you can answer some of these questions, is that all right? Benvenute e benvenuti alla seconda parte dell'intervista Occupy the Hood. La prima parte era con Malik, uno dei fondatori e fondatrici del movimento Occupy the Hood. E durante la conversazione ci raggiunse Preach Peace, un altro dei fondatori, con cui abbiamo parlato di strategie di lotta e resistenza, e abbiamo conversato pure sulla repressione, anche dal punto di vista di comunità afroamericane, e come questi temi di repressione purtroppo sono frequentemente trascurate nell'ambito del movimento di Occupy Wall Street, e quindi parleremo pure delle varie strategie che loro propongono per modificare, per dare un impeto, una direzione un po' più efficace a questo movimento che ancora è in fase di evolversi. Buon ascolto. Questa, per ricordare a tutti e a tutti, fa parte dell'intervista a Occupy Wall Street tenutasi il 30 dicembre del 2011. Something I caught on television, and it reminded me of the 80s and the crack era, like the drugs and all. I'm like, how the hell are these people come from Africa? Allora, ho raccontato a loro della situazione in Italia e dei CIE, cioè

afroamericani, e soprattutto perché appunto anche la repressione, a prescindere dai comportamenti, è particolarmente intensa e aggressiva nei confronti di diciamo la popolazione afroamericana. Metteremo questa anche gli indirizzi dove potete trovare di più. Hanno un sito, occupythehood.org. Metteremo quindi nella registrazione di questa trasmissione, sotto troverete anche tutti i siti dove potete trovare anche altre informazioni se volete approfondire. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e dovevamo parlare anche di altre cose, ma ne parleremo la prossima volta, per esempio di questo provvedimento che vuole mettere fine a quella bruttura, ovviamente per il prossimo anno, anche se il provvedimento viene discusso adesso, della chiusura degli OPG, i manicomi criminali, questa tremenda luoghi di tortura, di devastazione presenti nel territorio italiano. Quindi, però ci sono anche ancora tante resistenze, soprattutto tante diciamo brutti presentimenti per il problema appunto degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi per le persone che in virtù di questa così presunta differenza, diversità, chiamata malattia mentale, la chiamano in tutti i modi per etichettare una diversità, ovviamente da punire, condannare, aggredire, si tengono in piedi queste strutture di vera e propria tortura. Sono le 16 in punto, noi terminiamo questa trasmissione, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà per tutti e tutte.